I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. È importante che governo e sindacati siano tornati a parlarsi e abbiano messo in campo un perfezionamento della riforma delle pensioni e abbiano anche cominciato a parlare di come tagliare il cuneo fiscale. L'APE, vale a dire l'anticipo pensionistico, che prevede forme di penalizzazioni variabili tra l'1 e il 3% per chi decida di andare in pensione prima di aver maturato il requisito dell'età, è una riforma intelligente, anche perché sarà applicata su base volontaria e prevederà una copertura per lo più autofinanziata. Completare la riforma delle pensioni ha un alto valore nella reputazione europea e darà all'Italia un'ulteriore patente di riformismo che così tanto ha già fruttato finora per ottenere quella flessibilità nei conti che ci permetterà di avere quasi 14 miliardi da destinare agli investimenti. Se poi questa riforma, come è emerso fin dalle prime battute di ieri, sarà collegata anche a un taglio strutturale del cuneo fiscale, l'Italia avrà davvero fatto un grande balzo in avanti per recuperare competitività e produttività. Ridurre il divario tra salario netto e costo del lavoro per l'impresa, uno dei più ampi in Europa, sarà importante per liberare risorse da destinare a nuova occupazione, nuovi investimenti e nuovo reddito. È quindi doveroso salutare questa stagione di nuovo dialogo sociale, senza rimpianti verso l'antica concertazione e senza più ostentazione della nuova ideologia della disintermediazione sociale propugnata fino a qualche mese fa dal governo. Il recupero di una sana dialettica sociale potrà essere un segno di ritrovata vivacità, un modo per scommettere sul futuro e per quella via per ritrovare fiducia, una fiducia che non passa da interventi spot mirati al consenso di breve periodo, ma da interventi strutturali e da riforme ambiziose che garantiscono un consenso profondo e duraturo e fanno fare al paese un vero salto verso la modernità. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. È arrivata stanotte l'intesa tra i ministri delle finanze della zona euro e il Fondo Monetario Internazionale per concedere alla Grecia una nuova tranche di aiuti e, aspetto più importante, per rimodulare, anche se solo dal 2018, il suo debito pubblico. Vediamo prima gli aiuti. Il pacchetto prevede la concessione alla Grecia di 10,3 miliardi di euro, che sono parte del terzo programma che valeva 86 miliardi di euro varato l'estate scorsa. La prima tranche da 7 miliardi e mezzo arriverà a giugno, poi dopo l'estate la seconda. La cosa curiosa è che questo denaro servirà quasi esclusivamente per pagare le rate di vecchi prestiti. Molto più complesso è il capitolo sul debito, che ricordiamolo, alla fine del 2015 toccava per la Grecia il 180% del PIL, con un valore di circa 320 miliardi di euro. Il problema era di appianare le distanze tra il Fondo Monetario, che da tempo chiede un intervento per un progressivo alleggerimento del debito greco, e la Germania, che invece era disposta a qualche concessione sulle scadenze, sui tassi, ma a nessun taglio. Il compromesso che ne è uscito sembra assecondare più la posizione rigorista dei tedeschi, con qualche concessione anche al Fondo Monetario, perché l'alleggerimento del debito arriverà, ma solo dal 2018. Questa data non è casuale. Come sappiamo, la Germania andrà al voto nel 2017 e un accordo immediato sul taglio del debito greco sarebbe stato molto impopolare per il cancelliere Angela Merkel. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.